Veramente là è riuscito il mio artista Stefano Ronci, che è uno degli artisti rappresentati da Zamagni Arte, uno dei grandi artisti in Zamagni Arte. Stefano parte, questo è un po' il suo pensiero e idea artistica, quello delle superfici lucide. È un pensiero che nasce da lontano, ma soprattutto sviluppato dal gioco. Quindi abbiamo all'inizio una teca che è uno dei suoi lavori principali, che su Bologna era presentato in cubo, sì, dell'Unipolsai, dove parte dai resti delle matite. Tutti noi abbiamo temperato delle matite, e quel truccio andava nel bidone, no? E anche seppur colorato. Stefano l'ha reso importante, l'ha reso magico, messo all'interno di una teca di plessica come se fossero qualcosa di prezioso, come delle farfalle che volassero da lontano, ferme all'interno di una teca. Ma dal di lì c'è tutto un percorso che nasce poi sull'Adriatico, sul mare. Stefano è un artista che nasce coi piedi nell'acqua, di Viserba, ma ha girato tutto il mondo. Le sue mostre sono state anche all'estero, a Berlino, a Monaco, ha lavorato con gallerie molto importanti, come, ripeto, arrivato in Unipol e scelto da Unipol per rappresentare i prossimi 10 anni con un catalogo edito Schira. E dal di lì sono nate vari progetti dove la superficie lucida lo intrigava, gli dava la sensazione, lo ispirava, perché poi parte anche da questi racconti che l'Adriatico dà, no? Ci sono varie sfumature, siamo in una terra chiamata di confine, con le colline di dietro e il mare davanti, con delle sfumature che sono solo emiliano-romagnole, perché siamo emiliani-romagnoli. E lì sono nati prima i paesaggi, dove l'artista ha praticamente creato solo delle sfumature, togliendo il vero paesaggio, lasciando la sfumatura del colore di un'alba, di un tramonto, di un colore strano che poteva trovare solo all'interno dell'Adriatico, perché l'artista poi è un surfista. Dal di lì ha creato questa superficie lucida con la resina, che dopo 20 anni di studio sulla resina la riesce a lavorare in una maniera straordinaria, rendendola specchiante, proprio specchiante. Ma l'evoluzione del paesaggio chiamato piatto, abbiamo una fantasia romagna bellissima, no? Che paesaggio piatto, dopo voleva arrivare a dargli un movimento, quindi questi grandi paesaggi al momento giusto l'artista, sempre con queste sfumature che avete visto all'interno della mostra, le impacchetta, gli dà una forma per rendere un'opera scultorea a parete, e si chiamano paesaggi molli, quindi paesaggi piatti, paesaggi molli. È un percorso che è iniziato 4 anni fa. 2 anni fa abbiamo presentato ad Arverona, siamo stati 7 per Arverona, e da Arverona siamo stati invitati dalla Polveroni ad Arte Nuvola Roma con un progetto che era sull'acqua, dove Stefano ne era presente, anzi era l'artista principale, e Stefano è riuscito, con un dialogo, sempre venendo in galleria, quello che tutti noi riusciamo a fare, e l'abbiamo fatto, un segno semplice su uno specchio, che iniziamo da bambini a uno specchio di una macchina condensata quando siamo annoiati, a un temporale, a un vetro di un temporale, per arrivare a un segno da adulti che si fa in una doccia, e dal di lì si fa una faccia tonda. A me era facile fare il ritratto del babbo perché è pelato, quindi i miei figli lo facevano facile, ad arrivare al fallo che poi... Io scrivevo il nome dei miei gatti. Bravissimo, quindi ognuno di noi riesce a fare quel gesto che rimane indelebile, ma rimane indelebile nel cuore, nella mente di una persona, ma lui l'è riuscito a portare fuori di casa, a rendere pubblico un gesto intimo che mediamente dura 5 secondi. Io ti ringrazio tantissimo, ho avuto piacere che hai citato la nostra regione, che è talmente bella, bellissimo, che ha due nomi, bellissimo, Emilia e Romagna, assieme, bravissimo, e insieme. Bravissimo, grazie. Bravissimo, grazie a te.